Non sento più sangue che scorre nelle vene di ipocriti falsi. Ne ho le palle piene di tutto il buonismo, finto e compiaciuto, che a questo mondo è sempre appartenuto. Finti moralisti che condannano chiunque, loro sanno tutto e parlano ovunque. Con la bocca piena solo di cazzate, che ti demoralizzi se le hai ascoltate. Impara ad ignorare questo ammasso di carogne, impara ad ignorare le voci maligne. Combattiamo il sistema abbattendo confini, ribaltiamo dalle sedie questi aguzzini. Non meritano un cazzo di quello che hanno, fottere gli altri è quello che fanno. Le macchine blu anche per andare al cesso, ogni scusa è buona ad evitare un processo. Senza chiedere permesso, ti cura lo stesso. Un sistema complesso che porta all'eccesso. Non sento dolore, ormai sono abituato a sentirmi umiliato dal sistema e dallo Stato. Se ti guardi in giro vedi facce sconsolate, se ti giri un attimo solo coltellate. Ad essere sinceri, provo frustrazione, analizzo il problema ma non c'è soluzione. La crisi mondiale inventato a tavolino per far sì che l'operaio non timbri il cartellino. L'azienda chiude e riapre in Cina, economia mondiale silenziosa assassina. Combattiamo il sistema abbattendo confini, ribaltiamo dalle sedie questi aguzzini. Non meritano un cazzo di quello che hanno, fottere gli altri è quello che fanno. Le macchine blu anche per andare al cesso, ogni scusa è buona ad evitare un processo. Senza chiedere permesso, ti cura lo stesso. Un sistema complesso che porta all'eccesso. Non sento nessuno urlare nel silenzio, sembra un overdose di assenzio. Se esiste qualcuno che vuole lottare, questo sistema lo sta ad emarginare. Stato di alienazione costante, permanente, sull'uomo pensante. Non devastato a livello mentale da questo paese che ci vuole castrare, privando libertà vecchie di decenni, producendo solo un ammasso di dementi. Combattiamo il sistema abbattendo confini, ribaltiamo dalle sedie questi aguzzini. Non meritano un cazzo di quello che hanno, fottere gli altri è quello che fanno. Le macchine blu anche per andare al cesso, ogni scusa è buona ad evitare un processo. Senza chiedere permesso, ti cura lo stesso. Un sistema complesso che porta all'eccesso.